Il punto di Stefano Folli. La Lega e il movimento di Grillo sono i bersagli politici contro cui si è scagliato ieri Renzi. Si dirà, per forza, sono le due uniche forze di opposizione o quasi, ma non c'è solo questo. I toni sono molto diversi. Da un lato la Lega è descritta come un partito che va verso destra, anzi verso l'estrema destra. Il tentativo di trasferire in Italia comportamenti e stereotipi tipici di altri paesi e finora privi di radici qui da noi. In sostanza con Salvini non è possibile alcun contatto e nemmeno per Berlusconi, ecco il sottinteso, sarà facile averne in futuro. Dall'altro lato i 5 Stelle sono visti come un movimento che si sta sgretolando perché sconta gli errori di leadership commessi da Grillo, cioè l'eccesso di populismo e l'ossessione di dire no a tutto, ma agli elettori dei 5 Stelle Renzi guarda e come, ritiene con la sua politica di poterne recuperare parecchi e si sforza in tal senso. Nella costruzione del consenso, missione a cui il Premier si dedica anima e corpo, l'elettorato grillino è un serbatoio prezioso.